percorso è stato molto lungo ed è un percorso principalmente politico, in realtà politico-giudiziario, nella misura in cui la magistratura, mossa in un certo modo e attivata in un certo modo da certa politica, ha portato a una sorta di campagna che ha visto nel mirino principalmente il PT, il Partito dei Trabagliatori, che è quello del presidente Lula. In realtà gli attacchi più forti sono iniziati dopo la campagna elettorale che ha visto vincitrice Dilma nel 2013, perché non si aspettava che potesse vincere e invece ha vinto. E da quel momento sono, diciamo, partite una serie di campagne giudiziarie, una serie di inchieste che volevano portare in luce la corruzione messa in atto dal Partito dei Lavoratori. Ovviamente fare un'inchiesta per corruzione in uno dei paesi più corrotti del mondo, dove la corruzione è istituzionalizzata, diffusa e una parte fondamentale delle istituzioni, non ci voleva molto che venissero fuori una serie di scandali. Gli scandali e in particolare l'inchiesta Lava Jato ha portato, come dire, in evidenza un complesso sistema di corruttele che ha visto però al centro tutti i partiti, tutti i gruppi parlamentari e anche il presidente che ha sostituito poi Dilma. Nonostante questo, la presidentessa Dilma, che non aveva nessuna responsabilità diretta, è stata pedita, è stata subito il processo di impeachment, è stata allontanata dalla sua carica nonostante non avesse nessuna indagine o accusa di corruzione, e al suo posto c'è andato il vicepresidente Temer e il nuovo governo, che è invece profondamente colpito da questa inchiesta. È colpito da questa inchiesta anche il principale avversario politico, che è Aecio Neves, il principale avversario politico che ha perso le elezioni con Dilma, e nonostante le prove contro queste persone siano sostanziali, siano solide come rocce, nonostante ci siano intercettazioni telefoniche, ci siano collaboratori di giustizia che hanno testimoniato questo, né contro il presidente, né contro Aecio Neves, né contro nessun altro si è abbattuta la scure giudiziaria al punto di portare in galera queste persone, sebbene in galera ci siano finiti in tanti. Il giudice Moro in particolare, che è un po' il simbolo di quella che viene chiamata mani pulite brasiliana, se l'è presa con Lula. In realtà uno degli obiettivi principali è sempre stato Lula, perché il presidente Lula rappresenta, nel bene o nel male, do un parere avvalutativo, nel bene o nel male, che lo si ami o lo si odi, che gli si riconoscano meno i grandi risultati ottenuti in termini di riduzione della povertà, è comunque l'antisistema per eccellenza, cioè si oppone lui con la sua figura, con il suo partito e il sostegno delle masse delle quali gode, si oppone a una vecchia elite, diciamo, postcoloniale, fatta di uomini ricchi, bianchi, di una ristrettissima elite che hanno in mano il potere economico, hanno in mano il potere politico da sempre e che si sono visti contrastati, e in che modo, dal presidente Lula. Per cui Lula rappresenta il vero antagonista, l'anticristo per certi versi, per cui va contrastato con ogni mezzo. E il processo che lo ha visto finire alla fine del terzo grado di giudizio in carcere è un processo che, secondo gli standard occidentali, come lo stesso New York Times ha detto, è un processo praticamente ridicolo, nel senso che non ci sono prove, non ci sono delle solide, concrete indicazioni che questo reato che gli viene addebitato, che tra l'altro è quello di aver ricevuto in cambio di presunte corruzioni non provate un appartamento come regalo, insomma come mazzetta, non ci sono prove, eppure è stato indagato, processato, mandato in carcere. In realtà è stato accompagnato in carcere da una folla, perché comunque lui nutre, diciamo, dell'appoggio della popolazione, e questo è un processo che è tutto politico, perché come dicevo, dal punto di vista giudiziario non ci sono prove contro Lula, viene condannato e mandato in carcere perché è visto come l'antagonista di sistema, e al contrario non vengono mandati in carcere il presidente, che non viene neanche sottoposto a impeachment, vari suoi ministri e varie persone a lui vicine, nonostante le prove siano schiaccianti, enormi, lampanti e estremamente solide. Ed è per questo che alcuni hanno parlato di una sorta di golpe istituzionale che è venuto avanti negli ultimi anni in Brasile. Sì, ma in realtà noi possiamo parlare di un golpe soft, se vogliamo dire, nella misura in cui non è più con i militari che si impone la forza, anche se sul Brasile possiamo fare una differenza, perché i militari hanno sempre, e lo si sta vedendo su quello che si fa a Rio, un peso importante, però non è più sui militari, ma utilizzando le leve del potere giudiziario in questo caso, o anche del potere parlamentare, per poter eliminare gli antagonisti, perché nel caso di Dilma, della presidentessa Dilma Rousseff, il processo parlamentare di impeachment Parlament è un passaggio previsto dalla Costituzione, è addirittura una garanzia costituzionale. Il problema è che è stato portato avanti a colpi di maggioranza politica in Parlamento per eliminare una persona che comunque non aveva i requisiti per poter essere né messa sotto processo né poi sollevata dall'incarico. La stessa cosa Lula, viene utilizzato un potere giudiziario che tante volte è stato accusato di essere, come dire, di parte, e nel caso del giudice Moro addirittura parte proprio del partito, visto che è più che un simpatizzante è credo un sostenitore. Come dire, sono stati usati degli strumenti parlamentari e degli strumenti giudiziari, quindi legali, quindi ufficialmente legittimi, per poter eliminare qualcuno che poi è sostanzialmente il presidente Lula e Ciuma, che è più o meno una sua emanazione. Per cui si può parlare di golpe nella misura in cui possiamo interpretare questa parola o possiamo far ricadere sotto questa definizione anche una serie di pratiche pseudolegali tutelate dalla Costituzione, che hanno portato all'eliminazione dei due protagonisti chiave. Il problema è come si affaccia oggi il paese alla situazione politica e quale sarà il futuro, visto il caos che c'è in corso. Si può già ipotizzare come reagirà il Partito dei Lavoratori? Ma guarda, in realtà il Partito dei Lavoratori ha un grosso sostegno popolare, per cui il discorso è in vista delle elezioni diciamo politiche presidenziali, dove Lula era uno dei candidati in pectore. Gli altri candidati sono molto discutibili, ce n'è uno in particolare, Bolsonaro, che è una persona misogina, fascista per sua dichiarazione, tra l'altro una persona che ha appoggiato all'epoca come militare la giunta militare e che favorisce, diciamo, l'intervento militare, che pensa che quello della dittatura sia stato il periodo più florido del Brasile, il migliore, al quale bisogna tornare, quello che pensa che bisogna sterilizzare per esempio le donne delle favelas, così che non creino più bambini che, essendo di favelas, automaticamente sono dei criminali. Insomma, parliamo di persone con un pensiero latifondista dal punto di vista economico e medievale dal punto di vista dei diritti sociali e civili, e questi sono i candidati. Ora, il problema è che si oppositi sono contro questo partito di estrema destra che è rappresentato da Bolsonaro, il partito di centrodestra, diciamo così, che è quello di Aécio Neves, che ha già perso le elezioni, che anche lui è stato indagato più e più volte e anche condannato in realtà, ma non è finito in carcere per corruzione, il partito del presidente Temer, che è il partito migliore rappresentante, diciamo, dei partiti corrotti in Brasile, e poi ci sarebbe il PT, il partito di Lula, che adesso non sappiamo quali saranno le prossime mosse, ed è anche un azzardo fare delle anticipazioni, però si deve capire se lui sia ineleggibile, incandidabile, fino a che punto, visto che è comunque in carcere e che dovrebbe rimanerci per molto, vista la condanna, e quindi si deve capire. Il problema è che c'è un'opposizione sociale in strada molto forte, la tendenza del governo, sia dal punto di vista del controllo della pubblica sicurezza, come dimostrato nelle favelas di Rio negli ultimi mesi, sia dal punto di vista del temperamento personale, e gli altri partiti di destra, tra cui in particolare quello rappresentato da Bolsonaro, hanno una tendenza alla violenza, una tendenza all'abuso della violenza e all'imposizione della violenza militare per controllare le popolazioni. Quindi l'atmosfera è un po' esplosiva ed è anche molto rischiosa, perché noi abbiamo da un lato i sostenitori di Lula, il partito dei lavoratori in generale, tutta quella parte della società che è a favore del presidente o comunque, anche se non a favore personalmente di Lula, ma di quella parte politica che si oppone a tutta l'altra, che ha in mano il potere, ha in mano il denaro e ha in mano il controllo soprattutto dei sistemi di sicurezza dello Stato. Per cui i rischi sono forti, e sono molti rischi sociali. Dal punto di vista politico-economico il paese ormai è in ginocchio, non c'è più niente da fare se non degli atti rivoluzionari, ma la ricetta neoliberista spinta del presidente Temer ha portato qualche miglioramento all'inizio, come sappiamo essere un effetto normale delle politiche neoliberiste, ma poi ovviamente non si è consolidata, quindi stanno provando a svendere le cose, stanno cercando anche di modificare la legge per vendere i territori che finora erano tutelati dalla vendita agli stati esteri. Insomma, dal punto di vista economico e politico la situazione è drammatica, dal punto di vista della democrazia e di estrema crisi, dal punto di vista sociale io sono seriamente preoccupato. Tra l'altro la deriva di controllo militare o questa violenza verbale che potrebbe diventare fisica a breve mi inquieta molto per l'affetto che ho nei confronti del Brasile, dei brasiliani in genere, ma poi dei miei amici dai quali sento frasi davvero inquietanti che mi fanno molto riflettere, mi fanno molto male, per cui siamo molto preoccupati tutti, ecco.